4 mattino. Simone, buongiorno, anch'io ci sono come ogni mattina e sto andando al lavoro. E riguardo i ragazzi, una tristezza assoluta. Buongiorno, mi sembra veramente però troppo pensare che quello che è successo al Pincio sia dovuto al lockdown o al fatto che i ragazzi non si possono incontrare. È come se giustificassimo gente che fa delle rapine adesso perché non sa cosa fare o perché è in lockdown. Non esageriamo con lo scusare le persone o dar colpa sempre al lockdown o a quello che sta succedendo, altrimenti finiamo per esagerare. Nei piccoli comuni, almeno in Toscana, il contagio non esiste. Sono tutti immuni, quasi tutti. Non esiste il contagio. Ovviamente qualche caso. Sì, probabilmente l'ascoltatore non intende immuni, intende semplicemente che in questi comuni non c'è. C'è è un grande tema, questo dei piccoli comuni, come dicevamo, il Ministero dell'Interno ci sta ragionando. Sulla questione del Pincio, ma sì, ha ragione l'ultima ascoltatrice, infatti l'abbiamo detto, chiaramente sono comunque degli imbecilli, però su questo tema dai giornali ci sono degli elementi interessanti sui quali voglio arrivare tra poco. Questa è la seconda parte di 24 Mattino, quella dedicata alla rassegna stampa. Sono le 7:20 minuti e 8 secondi, è lunedì 7 dicembre e al microfono c'è sempre Simone Spezzi, eccomi qua. E possiamo iniziare dando un'occhiata, come sempre, ai titoli dei quotidiani, i titoli principali, i titoli di apertura. Allora, la stampa decide di aprire con un fronte, secondo me, molto interessante e promettente in termini di rischi per il nostro paese, ossia il fronte del Recovery Fund, ossia i fondi europei, dubbi di Bruxelles sull'Italia. Marco Bresolin, che è l'inviato a Bruxelles della stampa, racconta un po' come appunto da Bruxelles, dalla Commissione europea, stiano sollevando delle perplessità sull'Italia. Ci arriveremo tra un attimo a queste perplessità, vi preannuncio e vi dico che sono relative al fatto che noi siamo sotto procedura di infrazione per una serie di violazioni alle normative europee e chiedere soldi per quei fronti potrebbe essere problematico. Fondi europei, lite sulla squadra, il titolo del Corriere della Sera. Recovery, strappo di Renzi, ed è sempre il tema della squadra, nel titolo della Repubblica che intervista l'ex presidente del Consiglio e leader di Italia Viva. Il Fatto Quotidiano, Renzi e ribelli 5 Stelle anticonte. Il Fatto Quotidiano ci porta anche su Open, sulla fondazione Open, perché arrivano le accuse per corruzione, quindi mette insieme le due cose il Fatto Quotidiano. Il Messaggero ci porta sulla ministra dell'Istruzione, Lucia Azzolina, che parla di scuole aperte fino a luglio, con un'ipotesi appunto di chiusura il 30 giugno e in classe il sabato. Il Giornale su scioperati e premiati, il regalo agli statali, così lo definisce, incrociano le braccia perché, come sapete, mercoledì ci sarà lo sciopero degli statali. Tra l'altro ne parleremo più avanti nel corso di 24 mattina, avremo ospite una sindacalista della funzione pubblica della CGIL per farci spiegare un po' come mai abbiano deciso di andare avanti a fronte anche delle vibrate proteste che sono arrivate da un pezzo del paese. Incrociano la braccia, la ministra aumenta gli stipendi, così il Giornale nel suo titolo di apertura. Il Quotidiano Nazionale ci parla delle regole per fare visita ai nonni. La Verità ci dice che sostiene che i ministri hanno ignorato gli allarmi di chi chiedeva i piani antipandemia. Libero ci racconta degli 11 vaccini pronti che noi non abbiamo, e si parla di tutti gli altri, non sono ancora stati approvati, non sono stati, dei quali non sono ancora stati avviati gli acquisti. Il Sole 24 Ore si dedica al cashback. Via il cashback, lo Stato rimborsa chi paga con app, carte e bancomat. Ma ci racconta anche una questione di tasse sulla quale arriveremo più avanti. Addio Tasi. In 4.000 città sale l'IMU, prevedibile, si toglie una tassa e ne viene aumentata un'altra, un grande classico. Però fatemi iniziare con due interviste oggi. La prima è una bella storia, bellissima storia, guardate, veramente, secondo me una di quelle storie che veramente apre il cuore, a ridosso di Natale, se volete, o a due passi da Natale. E la seconda intervista invece è un'intervista, secondo me, destinata a far discutere, perché riapre il fronte della violenza contro le donne da un punto di vista femminile. Veniamo però alla prima, che è quella bella. L'intervistato viene intervistato dal Fatto Quotidiano a pagina 5. L'intervistatore Antonello Caporale, l'intervistato è Sebastiano Misuraca. Chi è Sebastiano Misuraca? È un cittadino semplice, è un pensionato che commerciava in grano e racconta un'attività che mi ha dato tante soddisfazioni e oggi mi permette di scegliere cosa fare e come fare. Il luogo è Mussomeli in Sicilia, dove sorge un castello bellissimo, il castello di Mussomeli, costruito tra il 1364 e il 1367 da Manfredi III Chiaramonte. Un castello la cui vista è stata stuprata letteralmente per anni da uno di quei tanti edifici semicostruiti che si trovano in tante zone del nostro mezzogiorno. Cosa ha fatto il signor Sebastiano Misuraca? Ha comprato la villetta e l'ha fatta abbattere. Oh, ma che bella storia. L'estate stava finendo. Dei turisti tedeschi fotografavano la nostra meraviglia, ma distintamente vedevo che indicavano quella casa increduli che potesse essere là. Mi sono molto mortificato e quel giorno ho deciso di concludere le trattative per l'acquisto. Cioè deciso che l'avrebbe acquistata per raderla al suolo. Era un pensiero ricorrente, ma c'erano problemi per via dell'accatastamento ancora parziale dell'immobile. Anche la richiesta economica dei proprietari mi pareva esosa. Avrei voluto pagare di meno quella casa costruita per metà, sempre disabitata, lasciata nell'incuria. Poi mi sono deciso ad accettare tutte le condizioni. Mi sono impegnato a pagare il richiesto. Il notaio ha trovato una soluzione legale a questo mio proposito. Ho cercato un'impresa che facesse un lavoro pulito e celere. In una giornata l'abitazione è andata giù. In un pomeriggio sono stati rimossi i detriti, il terreno è tornato vergine e il castello liberato da quel sopruso. Sebastiano Misuraca, che non è nuovo a queste cose, perché lo racconta Antonello Caporale, negli anni passati ha fatto rimuovere sempre a sue spese un impianto di calcestruzzo abbandonato all'ingresso del paese. Abbiamo trovato una ditta specializzata nello smaltimento dei materiali ferrosi, tutto fatto a norma di legge, precisa. E ha pure fatto rimuovere a sue spese un silos metallico che sfregiava, se ce ne fosse stato bisogno, un altro lato del castello. Sì, è successo. Il nostro eroe di oggi è Sebastiano Misuraca, pensionato da Mussomeli in Sicilia. L'intervista che vi dicevo, che secondo me farà un po' discutere, è quella di una donna nota. Si tratta di Anna Maria Bernardini De Pace, l'avvocata divorzista più famosa d'Italia. E torna qua sul tema, tra l'altro oggi sui quotidiani trovate molti dettagli sulle inchieste che riguardano Alberto Genovese, l'ex proprietario di Facile.it, che teneva quelle feste in quella che chiamava Terrazza Sentimento. In una di queste feste è avvenuto, come sapete, lo stupro di una ragazza, andato avanti tutta la notte, è arrivato fino al pomeriggio. Troverete un po' di dettagli di racconto, innanzitutto, di ancora una volta di queste serate, e dall'altra parte delle accuse che sono arrivate da un'altra ragazza che sarebbe stata violentata a Ibiza da questa persona, ancora una volta drogata e poi stuprata. Anna Maria Bernardini De Pace, sul Libro, a pagina 11, torna sul grande tema che si è discusso, sul tema della colpevolizzazione della vittima. Il dire: non dovevi, una ragazza di 18 anni non dovrebbe andare a questa festa, che è la cosa che in tanti hanno detto e che molti giustamente ritengono una colpevolizzazione della vittima in questo caso. E fa una distinzione sottile, non so quanto sarà accolta questa distinzione di Anna Maria Bernardini De Pace. Dice: il grande equivoco, intervistata da Pietro Senaldi sul Libero è scambiare la responsabilizzazione della donna per la sua colpevolizzazione. Quando si verifica uno stupro è scontato che l'uomo sia colpevole. Prendiamo proprio il caso di Alberto Genovese. È evidente che è un criminale, infatti sta in carcere e se dipendesse da me andrebbe torturato esattamente come ha fatto lui con la sua giovane vittima. Però la ragazza ha delle responsabilità in quello che le è successo. Io, se qualcuno mi avesse portato in un posto del genere, sarei fuggita immediatamente e ho insegnato a fare lo stesso alle mie figlie. Avvocato, vuole inguaiarsi? Gli chiede Senaldi. Oggi il politicamente corretto non consente di parlare delle donne come di persone che si possano difendere e per questo io lo detesto. Il concetto che passa è che la brutalità dello stupro cancella tutto il resto, dice Senaldi, ed è un errore perché in questo modo si azzera il ruolo della donna, si tradiscono anni di battaglie per la parità e alla fine si mettono nei guai le ragazze anziché proteggerle, perché non si insegna loro a guardarsi dai pericoli. Ma una donna può sempre dire no, anche se ti segue in camera da letto. Certo che è così, però questo non significa che una donna può permettersi di vivere con la testa in aria. Se ti violentano la domenica mattina mentre fai jogging al parco non ti puoi rimproverare nulla, ma se vai a un droga party, ti fai sequestrare il telefonino e assumi stupefacenti, ti sei messa in una situazione a rischio che vivi o per ingenuità o perché ti interessava essere lì. Così Anna Maria Bernardini De Pace, una pausa. Con tutto il rispetto che è dovuto al Presidente della Repubblica Mattarella, ma il Presidente ha ascoltato le parole del rappresentante del Movimento 5 Stelle? Ma si rende conto finalmente del perché abbiamo un governo PD Movimento 5 Stelle? Non certo per fare gli interessi degli italiani, non certo per guidare il Paese, ma semplicemente per occupare delle poltrone. Gli statali che scioperano cominciassero in maniera retroattiva a prendere lo stipendio detratto come tutti quanti quelli che sono rimasti a casa durante la pandemia. Vediamo se si divertono ad avere il 50% dello stipendio perché la cassa integrazione non lo copre al 100%. Poi ne riparliamo. Io lo so che vi scatena questa storia degli statali. Vi ripeto, ne parleremo con una sindacalista della funzione pubblica più avanti alle 8.45 e 8.35. Invece sarà con noi il ministro Provenzano, il ministro per il Sud. 349-238-6666 per i vostri WhatsApp audio, le vostre voci, messaggi SMS, messaggi su WhatsApp, se volete anche rispondere al primo ascoltatore che sta molto duro col governo. Certamente la questione politica resta in primo piano, resta in primo piano con tutte le tensioni, come si diceva, che attraversano l'esecutivo. Prima di andare appunto alla parte politica che porta con sé anche le questioni europee, vi voglio riportare ancora un attimo sulla questione della rissa del Pincio, perché come vi dicevo c'è uno spunto interessante che arriva in particolare dalla stampa. Molti giornali si concentrano sul racconto, se vogliamo, sociologico di tutta la vicenda. Ci sono interviste a psichiatri, psicologi, il Messaggero che ci dice a pagina 5 con Alessia Marani e Flaminia Savelli che l'ultima moda prima del Natale sono gli appuntamenti social per le risse. La Repubblica con Valentina Lupia e Luca Monaco che ci racconta della Roma, delle gang violente che rissa, ne ho sbracati tre. Un mondo che mette insieme pezzi di trapper come per esempio 1727 World Star, l'ex ragazzo delle pulizie divenuto una stella di Instagram a base di parolacce, incidenti d'auto, così lo descrivono Lupia e Monaco con il suo video "Ho preso il muro, fratelli". E mondo nel quale si mescolano gang di vario genere. La stampa invece ci dà un'informazione interessante su come si stanno svolgendo e su dove si stanno indirizzando le indagini, perché secondo Flavia Amabile e Edoardo Izzo si tratterebbe di una trappola costruita in chat e sarebbe non solo una rissa, ma una manifestazione di protesta contro le regole anti-Covid. E la dimostrazione sarebbe nel fatto che praticamente non si è fatto male nessuno o quasi nessuno. È una delle ipotesi sulle quali stanno lavorando gli inquirenti per capire che cosa sia accaduto sabato sera sul Pincio a Roma, dove si è scatenata un'enorme rissa con centinaia di ragazzi presenti, tutti vicini, molti senza mascherina. I primi racconti e i video pubblicati sui social mostrano pugni, spintoni, una mischia al di fuori di ogni regola, però fin dall'inizio qualcosa non torna. Mentre la rissa è ancora in corso, le voci su quello che sta accadendo si spargono rapidamente attraverso le chat, in alcuni ambienti di giovani, alcuni anche minorenni. Chi può raggiungere il posto, aggiungendo ulteriore confusione a una situazione già poco chiara? Nessuno riesce a capire perché si sia scatenata la rissa, né chi abbia menato per primo. E soprattutto non ci sono feriti. Quando arrivano anche i carabinieri, la rissa è terminata. Qualcuno ancora litiga nella fermata della metro, ma è lontano. E dunque si ipotizza un flash mob camuffato da rissa, probabilmente da persone legate al mondo della trap romana, e potrebbero essere stati i ragazzi ingannati da qualcuno che li ha utilizzati per creare appositamente un assembramento di protesta per le normative per il contenimento dell'epidemia da Covid-19. Questa è anche l'ipotesi sulla quale si sta lavorando, racconta la stampa. Ancora, visto che siamo sul fronte della pandemia, il giornale ci porta sul tema della sanità con Giuseppe Marino, il quale apre la questione. Qualche ascoltatore ci aveva scritto e mandato gli WhatsApp in merito a questo. L'errore nei quiz che blocca 14.000 nuovi medici. Allora, noi stiamo qua a raccontarci da giorni che il problema non sono tanto le strutture quanto il numero dei medici che non è adeguato. Ebbene, gli specializzandi sono sostanzialmente bloccati. Una donna di 77 anni in buone condizioni generali giunge in pronto soccorso in seguito a una caduta accidentale in casa. Inizia così una delle 140 domande del quiz di ammissione alle scuole di specializzazione medicina. È la domanda che ha contribuito a mandare in tilt il reclutamento di oltre 14.000 specializzandi, in una fase nella quale il paese piange la carenza di medici come il primo dei problemi nella lotta al coronavirus. Qual è l'errore che c'è in questa domanda? Che viene allegata a una radiografia, ma la radiografia è del femore destro, mentre nella domanda si parla di frattura al femore sinistro. E dunque questo fa scattare i ricorsi e blocca il concorso che porterebbe a 14.000 specializzandi al poter essere utilizzati negli ospedali italiani. La storia la racconta appunto Giuseppe Marino a pagina 2 del giornale. Sul fronte ancora Covid, vi segnalo che le parole di ieri del commissario all'emergenza Domenico Arcuri stanno creando qualche perplessità. Tra le parole che stanno creando perplessità, lo racconta il Corriere della Sera a pagina 11, c'è quest'idea di non far vaccinare o di far vaccinare dopo chi ha avuto il virus. L'ho detto abbastanza chiaramente ieri appunto in TV, ospite di Lucia Annunziata, in mezz'ora l'abbiamo anche fatto sentire. Massimo Andreoni, direttore scientifico della Società Italiana di Malattie Infettive, dice questo: impossibile sapere quanti l'abbiano preso, la copertura deve essere totale, cioè il rischio è che facendo un'operazione di selezione di quel genere non si riesca a fare quella vaccinazione di massa che viene richiesta. Da medico gli proporrei di vaccinarsi a chi ha avuto il Covid, se appartiene per età alle fasce di popolazione che potranno essere immunizzate per prime secondo il piano del Ministero della Salute. Commissario per l'emergenza Arcuri, gli chiede Margherita De Bacca, ha annunciato che chi ha avuto il Covid non verrà vaccinato per primo né per secondo perché non è urgente e quindi è difficile immaginare che ci sarà una selezione, tu sì, tu no. Mi sembra più semplice dal punto di vista organizzativo immunizzare anche chi dovrebbe aver già sviluppato le difese. La finalità di una campagna di vaccinazione di massa è quella di dare la massima protezione possibile alla comunità e quindi il suggerimento di uno degli esperti è: ragazzi, fate vaccinare tutti il più possibile subito. Addentriamoci adesso nelle famose questioni politiche che sono correlate al Covid. Come si diceva prima, ogni volta che la pandemia allenta la morsa, come in questo caso, ci sono due cose che ripartono: la discussione sulla task force e le discussioni politiche intorno al fondo salva stati. E però la premessa a tutto questo è che noi stiamo lavorando e si sta cercando di lavorare perché per ottenere i fondi europei, quelli del Recovery Fund, quelli di Next Generation EU. Ebbene, la Commissione europea ci fa sapere, La Stampa con Marco Bresolina, pagina 3, con un retroscena, ci sta dicendo: ragazzi, non è mica detto che li otteniate. E perché? Perché noi siamo fuori legge su tutta una serie di normative europee. Come facciamo a giustificare il via libera ai fondi del recovery per il rilancio del turismo se il settore si trova in una situazione di illegalità sulle concessioni balneari, dice Bruxelles? E ancora, come facciamo ad approvare i progetti italiani per lo sviluppo dei porti verdi finanziati coi fondi europei se il governo continua a garantire l'esenzione fiscale alle autorità portuali in contrasto con la normativa europea sugli aiuti di Stato? Nelle ultime settimane alti funzionari della Commissione europea hanno iniziato a porsi e a porre queste domande. Le risposte per il momento ancora non ci sono, anche perché il piano italiano ancora non c'è, ma il governo rischia di trovarsi presto con le spalle al muro. Un esempio, la questione dei balneari, lo sapete benissimo. La storia l'abbiamo raccontata molte volte e... Trattandosi di attività sul terreno demaniale, secondo l'Unione Europea queste autorizzazioni dovrebbero avere una durata limitata, essere frutto di una procedura di selezione aperta, pubblica, basata su criteri non discriminatori, trasparenti e oggettivi. E invece l'Italia le assegna direttamente, sempre agli stessi proprietari, attraverso proroghe infinite. La vicenda si trascina da molti anni, il caso era arrivato perfino alla Corte di Giustizia. L'altro giorno, lo sapete, 4 giorni fa, l'Europa ha aperto formalmente una procedura di infrazione, inviando una lettera di costituzione in mora. E dunque, la domanda di Bruxelles è: come faccio, se ti ho appena messo in mora per una questione che ha a che fare con il settore del turismo, a darti i soldi per il settore del turismo? È una buona domanda. Traffico. Mattino. Allora, la questione politica, mentre molti ascoltatori, qualche ascoltatore ci segnala, dice: attenzione, si sta concentrando l'attenzione su quello che è successo al Pincio perché non si vuole mettere l'attenzione su quello che è successo a Riccione. Cosa è successo a Riccione? Sono state accese le luminarie natalizie e si sono... e c'era parecchia gente per strada, molto semplicemente. E ci sono polemiche su questo fronte, come ovvio che sia. Il sindaco, la sindaca Renata Tosi, sindaca di Riccione, dice: i filmati sono stati manomessi. Vedremo come evolverà la questione, anche se insomma, la conferma che la gente c'era per strada mi sembra che ci sia. Le questioni politiche ci portano su la task force, la famosa task force per gli investimenti di Next Generation EU, del Recovery Fund, dei fondi europei, e qua sono due interviste, tutte e due su Repubblica tra l'altro, a dominare la scena, quella di Matteo Renzi a pagina 3, intervistato a Concetto Vecchio. Dice: Conte si fermi, basta metodi sprezzanti, no a inutili task force. Non vi va bene il metodo? Del merito non sappiamo niente, sul metodo siamo contrari. Questo modo di fare non è solo sprezzante, è sbagliato. Noi siamo contrari a sovrastrutture di centinaia di consulenti che stanno al Recovery Fund come i navigator stanno al reddito di cittadinanza. Il futuro dell'Italia dei prossimi 20 anni non lo scrivono Conte e Casalino nottetempo in uno stanzino di Palazzo Chigi, dice Renzi. L'Italia ha già decine di migliaia di funzionari pubblici, migliaia di dirigenti, 20 ministeri. Il problema non è assumere altra gente, ma capire qual è la visione dei prossimi anni. E quindi l'idea di Renzi è di dire no sostanzialmente a questa struttura. E aggiunge un altro elemento in questa intervista. Concetto Vecchio gli chiede come Conte dice che ha i ministri migliori al mondo. Zingaretti lo invita a non tirare a campare. Chi ha ragione? Zingaretti. Sostenere che questo governo ha i ministri migliori al mondo è una barzelletta che non fa ridere. Sono andato a Palazzo Chigi a dirgli in faccia che sarebbe stato un bene innanzitutto per lui irrobustire la squadra. Cosa le ha risposto? Nel faccia a faccia si è detto d'accordo. Poi però ha fatto un'intervista, successivamente smentita, in cui ironizzava sul rimpasto. Non siamo alla caccia delle poltrone, non chiederemo nessun rimpasto. Se ha davvero i ministri migliori del mondo, però ci risparmi le task force dei tecnici a gestire i soldi europei. Se quelli sono i migliori del mondo, faccia spendere a loro i soldi. Per me il rimpasto non esiste più. Partita chiusa, dice Renzi in questa intervista molto dura. Dall'altra parte abbiamo Luigi Di Maio, che intervistato da Annalisa Cuzzocrea, sembra attaccare abbastanza nitidamente il Partito Democratico. Dice: in gioco il paese, gli alleati non provochino, l'incidente sarà evitato. Si parla ancora del voto che ci sarà dopodomani sulla riforma del fondo salva stati. Annalisa Cuzzocrea che gli chiede, parla del PD che con Del Rio vi invita a essere coerenti con le scelte fatte. Zingaretti definisce la linea pandemica del MES vantaggiosa. Renzi invita a prenderlo. Può reggere la maggioranza con posizioni così diverse? Guardi, io credo nel valore della democrazia. Questo Parlamento è espressione del voto elettorale del 2018. Il 5 Stelle è la prima forza politica. La sua voce non ha solo un peso, è determinante nell'architettura istituzionale. Dice: il no al MES è un fatto numerico, matematico, democratico. Perché alzare i toni? Perché complicare le cose? Così Di Maio, abbastanza netto, abbastanza duro sul Partito Democratico. Con cosa vogliamo andare a chiudere? Beh, direi innanzitutto con questioni di tasse. Lo so che è doloroso, però il Sole 24 Ore raccoglie con Gianni Trovati i dati successivi all'abolizione della Tasi. E sono dati che testimoniano quello che potevamo aspettarci. È stata abolita la Tasi e i comuni cosa hanno fatto? Hanno rincarato l'IMU. Per carità, le ambizioni della mini riforma dell'IMU scritta nella legge di bilancio dell'anno scorso erano modeste. Più che a ridurre l'imposta, puntavano a semplificarne il pagamento, scrive Gianni Trovati. Ma anche da questo punto di vista il risultato del primo anno appare tutt'altro che brillante. In questi dati, estratti per il Sole 24 Ore da Blue Next nella propria banca dati, mettendo a confronto le delibere tributarie di quest'anno con quelle del 2019, si scopre che 3.775 comuni hanno aumentato l'aliquota ordinaria e 4.029 hanno ritoccato anche quella relativa all'abitazione principale, che paga l'imposta nei circa 75.000 casi nei quali l'immobile è considerato di lusso dal catasto. Ed è sperabile che questi soldi, scrive Trovati, siano andati ad assorbire la mancanza della Tasi e non ad aumentare ulteriormente la tassa, cosa che però potrebbe essere probabile. I numeri su questo ancora non ci sono. Vi segnalo sempre dal Sole 24 Ore, pagina 27, un pezzo di Maurizio Caprino, niente male, perché in questa foga ciclistica che ha investito le amministrazioni comunali, e sempre da quelle parti rimaniamo, a volte le piste ciclabili vengono fatte senza tener conto delle norme, dice Maurizio Caprino che la mancanza di spazi porta a non rispettare norme tecniche, creando dei pericoli. Uno degli esempi più al centro di polemiche è quello dell'asse Corso Venezia, Corso Buenos Aires, uno dei più belli e importanti di Milano. Negli ultimi 8 anni a Milano le giunte comunali hanno investito oltre 70 milioni in piste ciclabili per ottenere un aumento della quota di utenti bici dal 5 al 6%. Per chi non la conoscesse, lo racconta bene Maurizio Caprino, la nuova pista ciclabile è a destra dei parcheggi, cioè a sinistra c'è la corsia di transito delle auto, in mezzo i parcheggi e a destra la pista ciclabile. Cosa succede? Che anche scendere dalla macchina in questo caso diventa complicato e potrebbe confliggere con delle norme di sicurezza. Infine, una notizia che mi ha spezzato il cuore, perché io questo aspetto di Roald Dahl, per chi non lo conosce, l'autore della Fabbrica di cioccolato, di Matilde, delle streghe, del grande gigante gentile, non lo conoscevo. E adesso arrivano le scuse dei suoi eredi per questo aspetto. Quale? L'antisemitismo. C'erano una serie di dichiarazioni che vengono riportate addirittura anche abbastanza recenti, l'ultima nel 1990 all'Independent, nel quale dice: sono sicuramente contro Israele e sono antisemita perché ti trovi ebrei in un paese come l'Inghilterra che appoggiano il sionismo. Ed è sempre così, non ci sono editori che non siano ebrei, controllano gli organi di informazione, quindi in piena linea complottista, do a Roald Dahl. Ebbene, sono arrivate le scuse della famiglia a un po' di distanza da queste parole, sono state pubblicate sul sito dedicato allo scrittore, racconta il Corriere della Sera con Paola De Carolis a pagina 19, un po' nascoste. Ci fermiamo, c'è GR24, ci ritroviamo tra poco con Paolo Mieli, poi il ministro Provenzano e poi parleremo di statali.